Sono restato un po' deluso, vi dirò, dalla pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha rimandato, almeno secondo le prime indiscrezioni, ha rimandato al mittente vingegnoso distinguo escogitato dal Presidente Amato per permettere il rientro in patria degli eredi di Casa Savoia, risparmiandosi la complicata procedura di una revisione costituzionale. Sì, d'accordo. Sì, d'accordo, era un po' una buffonata a un livello appena appena superiore a quello di un gioco di parole, ma a parte il fatto che la dimensione della buffonata non è del tutto inadeguata allo status culturale e civile degli interessati, quell'escamotage, se accettato, avrebbe avuto il non disprezzabile vantaggio di chiudere una volta per tutte una situazione fastidiosa e imbarazzante. In fondo è fin troppo ovvio che la 13ª disposizione transitoria della Costituzione, quella che vieta tra l'altro l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale agli ex re, alle loro consorte e ai loro discendenti maschi, proprio non sta in piedi. Si può benissimo convenire, e io ne convengo per primo, che quella dinastia ha prodotto nelle sue ultime incarnazioni più danni al paese di quanti ne abbiano arrecati i barbari e barberini congiunti, ma questo non è un buon motivo perché si facciano scontare a figli e nipoti le colpe dei padri e dei nonni. Per cui tanto voleva farla finita una volta per tutte, senza dare occasione a tante degne persone di rendersi ridicole con proposte benintenzionate ma assurde, come quella di condizionare il rientro degli esuli a un giuramento di fedeltà alla Repubblica o a un'espressa rinuncia a qualsiasi aspirazione al trono. Di giuramenti di fedeltà alla Repubblica non ha bisogno, anzi varrebbe la pena, già che ci siamo, di affrontare il discorso dell'abolizione di quello che si richiede agli impiegati statali, poveretti. E se uno proprio desidera per motivi suoi diventare re, non si vede perché precludergli a norma di legge questa aspirazione un po' demenziale ma innocua. La democrazia, lo sappiamo, ha i suoi costi, e a me fa più paura Berlusconi che vuol diventare presidente del Consiglio. Lasciamo pure perdere. Ma sempre a proposito di buffonate, avrete letto anche voi, suppongo, che Sua Altezza Reale Emanuele Filiberto di Savoia, principe di Venezia, perché questa deve essere la sua titolatura completa, è stato invitato a partecipare al Carnevale di Rio, non dai brasiliani, che hanno altro a cui pensare, ma dal comune di Cento, in provincia di Ferrara, il cui carro mascherato, per motivi che francamente mi sfuggono, ha acquisito il diritto di sfilare alla celebre manifestazione carioca. Il programma prevede la comparsa nel più celebre sambodromo del mondo, perché se non lo sapevate esistono anche i sambodromi, di un Emanuele Filiberto avvolto nella bandiera tricolore al suono delle note di Volare e di Funiculi Funicolà. Cosa c'entrino Volare e Funiculi Funicolà con Cento e con Rio de Janeiro non saprei dire. Il mio intervento questa settimana è registrato. Scrivo in anticipo e non so se a questo indecoroso spettacolo, tale da far rivoltare nella tomba le ossa degli antenati sabaudi e al tempo stesso quelli della tradizione anarchica repubblicana del Ferrarese, e non so se a questo indecoroso spettacolo si sia dato effettivamente corso. Ma non importa. Al di là di ogni valutazione di gusto e di dignità, quello che conta è che anche quel bravo giovane, il principe, dico, cominci a guadagnarsi da vivere. E non lo faccia trafficando in armi o smerciando vini pregiati, come mi sembra abbiano fatto in tempi recenti i suoi augusti congiunti, ma lanciandosi nel gran mondo dello spettacolo e delle comunicazioni di massa, perché è quello l'ambiente che da decenni ormai s'addice ai suoi pari, il mondo sgomitando nel quale si possono diventare, come si dice, una risorsa per il loro paese. Vedete? Il carnevale è una cosa abbastanza seria, ma quello di Rio, e me ne duole per gli abitanti di quella grande città, ormai non ha più niente di carnevalesco, nel senso che non è certo un'occasione di divertimento popolare, esattamente come il Festival di Sanremo non è più un'occasione per presentare delle canzoni. È un evento mediatico in cui i partecipanti esibiscono se stessi come icone e cui gli spettatori adoranti sono invitati a dare un valore. E ora... tra i partecipanti a simili eventi, i reali e gli ex reali, fa lo stesso, sono molto pregiati, sono pregiatissimi. Un re è sempre un re, anche senza corona. La storia, nel suo inesorabile evolversi, ha concesso a costoro una visibilità affatto ingiustificata. che in un modo o nell'altro la cultura contemporanea sente il bisogno di motivare. C'è attorno a loro una specie di vuoto che esige di essere ragionevolmente colmato mediante l'assegnazione di un ruolo qualsiasi. È quello dello Zanni, del buffone, dell'intrattenitore di varietà. In fondo è un ruolo che funziona come qualsiasi altro, forse di più, perché di intrattenitori visibili, di Zanni di un certo peso culturale, la società dello spettacolo ha veramente bisogno. Forse al principe di Venezia bisognerebbe richiedere un altro sforzo. Si procuri una fidanzata, anzi meglio due, una delle quali possibilmente lo tradisca in pubblico con un prestigiatore o un campione di sci nautico o qualche altra celebrità rotocalco televisiva. Poi si faccia sorprendere dai fotografi e dai giornalisti nella dolce compagnia di qualcun altro, meglio se fidanzata a sua volta con un cantante rock o qualcosa di simile, e spieghi a tutti che loro due sono solo buoni amici. Se riuscisse a far centrare anche una bella causa per il riconoscimento di paternità sarebbe il top. Non si faccia scrupolo pensando all'eventuale sconcerto dei vecchi monarchici o all'angoscia dei superstiti collavi dell'Annunziata. Quelli non contano. Pensi a quello che ha fatto per la causa monarchica e per quella della dinastia la sua collega Stefania di Monaco, che non è arretrata di fronte alle necessità più sgradevoli come quella di concepire per opera di infide guardie del corpo e che adesso sembra si appresta a vivere una storia con un domatore di elefanti. Sgradevole certo, ma cosa sarebbe la dinastia dei Grimaldi senza di lei? Anche i Savoia hanno bisogno di una mano di vernice nuova. Coraggio, altezza, si dia un po' da fare e vedrà che presto la supplicheranno in ginocchio di rientrare nel paese. Come si diceva dei suoi maggiori, avanti Savoia.